Das letzte Referat des heutigen Tages wird Herr Professor Leandro Polverini halten, der zwar, wie das hier im Programm richtig steht, in Rom wohnt und lebt, wenn er nicht in Marburg ist, aber Professor für alte Geschichte an der Universität Perugia ist. Professor Polverini bearbeitet seit längerer Zeit, darf ich sagen, den Briefwechsel zwischen Eduard Meyer und Karl Julius Beloch. Es ist eine jener vielen italienischen Arbeiten und Initiativen, von denen die deutsche wissenschaftsgeschichtliche Forschung profitiert. Und wir sind ihm darüber sehr dankbar. Wir sind ihm auch dankbar, dass er aus dieser Arbeit unveröffentlichte Briefe hier vorstellt und erläutert. Ich hatte das Privileg, diese Korrespondenz zu lesen. Und ich kann nur sagen, es ist eine sehr reichhaltige Korrespondenz, eine Korrespondenz, mit der es sich lohnt, sich zu beschäftigen. Es ist auch eine tragische Korrespondenz, wenn man sieht, wie Beloch am Ende seines Lebens verzweifelt sucht, wieder nach Deutschland zurückzukehren, nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist also ein Document humain ersten Ranges, über das er arbeitet, wobei uns hier natürlich heute vor allem die wissenschaftsgeschichtlichen Aspekte interessieren. Lieber Freund Polverini, bitte. Ja. Io ringrazio il professor Momigliano e il professor Crist per l'invito a presentare a questo seminario il carteggio Beloch-Meyer. Per vari motivi io preferisco chiamarlo così. È l'occasione più opportuna per fare il punto su un lavoro al quale attendo in un modo o nell'altro dal 1981, dal seminario pisano su Eduard Meyer, e che sarebbe ormai gran tempo di portare a termine, sono il primo a riconoscerlo. Quando finalmente riuscirò a pubblicare il carteggio, varrà forse la pena di raccontarne un po' la storia. In rapida sintesi, tutto cominciò quando la figlia di Beloch, ormai centenaria, decise di lasciare una parte del Nachlass paterno all'Istituto Italiano per la Storia Antica in Roma, dove allora lavoravo. Fra le non molte lettere di carattere scientifico conservate da Beloch, o almeno consegnate all'Istituto, le più importanti si rivelarono subito 25 lettere di Eduard Meyer degli anni 1885-1902. Una lettera del 1926 fu trovata solo più tardi. È una lettera in cui Meyer ringraziava Beloch per l'invio della Römische Geschichte, e quindi era finita fra le recensioni della Römische Geschichte. È stata una fortuna trovarla, perché lì Meyer descrive minutamente il viaggio che fece per i suoi 70 anni con i 5.000 marchi che gli furono regalati per i 70 anni, il viaggio in Egitto, Palestina, Asia Minore. Parla anche del viaggio in Russia del 25, e se tutto questo non bastasse descrive anche una parata delle legioni fasciste a Milano che aveva visto passando appunto per andare in Egitto. Questa è la lettera del 26. Protette da una scrittura mezzo latina e mezzo tedesca, le 25 lettere che allora inizialmente si erano trovate, tanto elegante quanto difficoltosa non solo ad occhio italiano, le lettere sarebbero forse ancora lì se il professor Momigliano non ne avesse sollecitato la presentazione al già ricordato seminario del febbraio 1981 e non mi avesse incitato in quell'occasione a cercare le corrispondenti lettere di Beloch a Meyer e a pubblicare eventualmente l'intero carteggio. Fu allora che ebbi il piacere di entrare in corrispondenza con il professor Crist, con il professor Deininger e con l'ultimo dei sette figli di Meyer, Hans Eduard Meyer, che ancora viveva nella casa paterna di Lichterfelde, Mommsenstrasse. Cercò invano fin da ultimo di farla ribattezzare Meyerstrasse, ma non gli fu possibile, il comune di Steglitz si oppose. Grazie alle sue indicazioni potei rintracciare 58 lettere di Beloch a Meyer degli anni 1885-1928 nell'archivio centrale dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Democratica Tedesca a Berlino, un'altra lettera del 1905 si è trovata giusto ora nella casa di Meyer. Nell'ottobre 1982, ospite dell'Accademia delle Scienze, ebbi modo di controllare la trascrizione effettuata faticosamente sulle fotocopie e l'anno scorso finalmente ho avuto il permesso di pubblicare le lettere. Grazie anche a proficui soggiorni a Marburgo, il testo del carteggio è praticamente definitivo, il commento richiederà ancora qualche tempo, tenuto conto, oltre che dei molti impegni fra cui ognuno di noi è pur sempre costretto a dividersi, del numero e dell'ampiezza delle lettere e della varietà e complessità del loro contenuto. Si tratta dunque di 85 lettere degli anni 1885-1928, sicché la presentazione del carteggio potrebbe apparire solo parzialmente giustificata in un seminario dedicato all'antichità nell'Ottocento, ma sono poche e di interesse prevalentemente biografico e politico le lettere posteriori all'inizio della Prima Guerra Mondiale, che certo rappresenta nella storia culturale, non meno che in quella politica, il più vero spartiacque fra i due secoli. Del resto, poiché le lettere di Meyer successive al 1902 sono andate perdute, salvo una, ho detto, anche per ragioni di tempo, preferisco ora limitare questa presentazione agli anni 1885-1902, per i quali il carteggio è pressoché completo e presenta non meno di 70 lettere, e dunque effettivo è il dialogo fra i due storici. Mi dispiace dunque di non trattare le lettere di cui giustamente il professor Crist aveva sottolineato l'interesse, le lettere dell'ultimo Belloc. Sono questi, a cui ho deciso di limitare la trattazione, gli anni in cui Eduard Meyer pubblicava la prima edizione della Geschichte des Altertums e Belloc la prima edizione della Griechische Geschichte. Era dunque prevedibile l'importanza del carteggio, che in effetti si rivela di notevole interesse innanzitutto per la biografia dei due storici e specialmente per la storia della loro amicizia. Di questa amicizia, tanto significativa nel quadro della storiografia sul mondo antico fra 8 e 900, non era noto finora più di quanto i due storici hanno pubblicamente attestato nelle loro opere. Mi riferisco a quel che Meyer, nel foreword del secondo volume della Geschichte des Altertums, dice del primo volume della Griechische Geschichte, apparso in quello stesso anno 1893, pochi mesi prima, Das Werk meines Freundes Belloc, e mi riferisco alla dedica che Belloc pose in fronte al terzo volume della Griechische Geschichte nel 1904, Eduard Meyer in Alter Freundschaft. Altri fatti ben noti, come il franco riconoscimento da parte di Meyer dell'importanza delle ricerche di Belloc sulla popolazione antica e sulla finanza greca, o il pronto allineamento da parte di Belloc sulle posizioni di Meyer nella famosa polemica con Karl Bücher intorno alla natura dell'economia antica, costituiscono elementi certo storiograficamente più significativi, ma molto meno espliciti, anzi niente affatto espliciti per quanto riguarda la storia di un'amicizia che il carteggio permette ora di seguire da vicino. La prima lettera è datata Lipsia, 17 maggio 1885, ma il ricordo delle vivaci discussioni intercorse l'anno prima sui Colli Albani, Belloc che abitava allora a Frascati, permette di fissare alla primavera del 1884, durante il primo viaggio di Meyer in Italia, l'approfondimento della conoscenza personale fra i due storici. D'altra parte so che i due si erano conosciuti l'anno prima a Lipsia. Meyer aveva allora 29 anni, ma aveva già pubblicato la Geschichte von Troas, nel 77, e la Geschichte des Königreichs Pontos, nel 79, e dato alle stampe il primo volume della Geschichte des Altertums, sicché quello stesso anno poteva essere nominato straordinario a Lipsia e l'anno seguente ordinario a Breslavia. Belloc aveva 30 anni e anche la sua bibliografia contava già tre volumi, Campanien del 79, Der italische Bund unter Roms Hegemonie dell'80, di Attische Politik seit Pericles, allora in corso di stampa. Già da 5 anni era straordinario a Roma. Con l'ampiezza della produzione e la rapidità della carriera, in anni in cui erano ancora rare le cattedre specificamente dedicate alla storia antica, e i due giovani studiosi avevano in comune anche il carattere sostanzialmente autodidattico della loro formazione storica. Bloch si era laureato a Heidelberg nel 1875, avendo studiato in Germania sì e no un semestre. Dei suoi studi a Palermo e a Roma non è ora il caso di parlare, vi ha accennato Gabba a proposito di Bonghi, che a Roma fu maestro di Bloch, per modo di dire, io penso almeno, ebbe comunque il merito, il grande merito di sceglierlo come suo successore già nel 1877, quando Bloch aveva solo 23 anni, lo si diceva prima. Anche Meyer si laureò nel 1875 a Lipsia, dopo aver dedicato i semestri universitari allo studio pressoché esclusivo delle lingue orientali, in funzione del grandioso progetto storiografico intravisto già nei fervidi anni ginnasiali al Johanneum di Amburgo. Il carattere sostanzialmente autodidattico della loro formazione storica significava anche, è appena il caso di avvertire, sostanziale indipendenza dalle scuole di storia antica, in particolare da quella di Mommsen. E già questi fatti, ma soprattutto l'affinità che i due storici dovettero avvertire subito fra certi aspetti della loro parallela ricerca di nuove vie storiografiche, possono almeno parzialmente spiegare l'intensa amicizia umana e scientifica testimoniata dal carteggio per quasi 45 anni, dal 1884 al 1928. Un filo conduttore della corrispondenza è costituito ovviamente dalla carriera accademica dei due storici. Si ha notizia del passaggio di Meyer da Lipsia a Breslavia nel 1885, a Halle nel 1889 e quindi a Berlino nel 1902, dopo il rifiuto di una chiamata a Monaco nel 1900. Le preferenze di Meyer andavano alle piccole città universitarie e a Berlino si trasferì controvoglia. Gern gehe ich nicht von hier fort, scriveva nel 1902 da Halle, und mir graut recht sehr vor Berlin und all seinen Trubel. Als mir die Sache angeboten wurde, konnte ich nicht ablehnen. Più interessanti, perché sconosciute, le notizie sui tentativi compiuti da Meyer per assecondare il grande desiderio che Bloch aveva di insegnare in Germania. Ne consigliò il nome per un posto di straordinario a Friburgo nel 1888, dopo che era caduta 3 anni prima la proposta di chiamarlo a Lipsia, e nel 1889 ne caldeggiò la chiamata come suo successore a Breslavia. La commissione della facoltà propose appunto Bloch al primo posto, Wilken al secondo e nessun altro, per semplificare le cose. Ma in forza delle nuove consuetudini introdotte da Althoff, l'onnipotente direttore dell'istruzione universitaria al Ministero prussiano, la proposta della facoltà non venne rispettata e fu nominato Wilken, che del resto Meyer aveva ottimamente giudicato. Si opponevano a Bloch non solo Mommsen e Nissen, e poteva bastare, ma anche le voci che egli intendesse tornare in Germania, soprattutto per darsi alla vita politica. È interessante a questo riguardo una delle comprensibilmente numerose lettere del 1889 che fa luce su un aspetto caratteristico della personalità di Bloch, finora noto soprattutto per la sua partecipazione alle elezioni tedesche del 1893 nelle liste della Fortschrittspartei, ma anche sulla forma mentis politica del giovane Meyer. Du voltest, scriveva Meyer dopo aver comunicato di essere stato chiamato a Halle e che per la successione a Breslavia sarebbe stato proposto primo loco Bloch, du voltest, wenn du in Deutschland wärest, dich in die politische Agitation werfen. Nun ist es mir selbstverständlich von der hier in Betracht kommenden Gesichtspunkt aus völlig gleichgültig, welcher Partei du angehörst und so weiter, sondern es handelt sich für mich nur die Frage einer richtigen Vertretung des betreffenden Fachs an meiner Universität. Und da habe ich dir gegenüber schon früher geäußert und muss es jetzt wiederholen. Ich halte es nicht für richtig, wenn ein Beamter, in Spezie ein Universitätsprofessor, seine Berufspflichten unter seiner politischen Tätigkeit leiden lässt. Zum Beispiel sich ins Parlament wählen lässt und semesterlang keine Vorlesungen hält und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass, wenn du in dieser Weise vorgehen wolltest, die Regierung mit Recht sagen könnte, haben wir ihn bloß deshalb aus Italien hergeholt, damit er uns auf alle Weise Opposition macht. Und mir völlig berechtigte Vorwürfe machen würde. In Summa, du hast mir einmal gesagt, du würdest deine Professur in Deutschland lediglich als eine Brücke betrachten, um dich ganz in die politische Agitation zu stürzen. Ist das wahrhaft deine Meinung und Absicht? So könnte ich es allerdings nicht verantworten, energisch für dich einzutreten, da ich mich mit dem Nichtwissen ja einmal nicht mehr decken kann. Attese le circostanze, è comprensibile il tono circospetto della lunga risposta di Beloch, che ad ogni modo chiarisce notevolmente la sua posizione politica di allora. Worauf es mir am meisten ankommt, sind soziale Reformen. Und in diesem Punkt stehe ich, wie du weißt, der Fortschrittspartei ebenso fern, wie ich mich mit der Ansicht der Regierung mehr berühre. Außerdem ist mir in der Fortschrittspartei das Judentum antipathisch und die politische Unfähigkeit der Führer. Andererseits missfällt mir, wie du weißt, an den Kartellparteien das Sacrificio dell'Intelletto. Ich könnte dir also jetzt selbst nicht sagen, welcher Partei ich angehöre. Wenn ich nach Deutschland käme, würde ich zunächst mich sehr reserviert verhalten und Dinge studieren, denn bei längerem Aufenthalt im Ausland verliert man doch das Urteil über die Sachen und namentlich die Personen. In der praktischen Politik kommt es sehr viel weniger darauf an, was man absolut für richtig hält, als darauf, was im Augenblick oder in absehbarer Zeit erreichbar ist. Meine Ideale kennst du, aber Ideale sind eben in der Regel nicht zu realisieren. Wie weit sie zu realisieren sind, hängt ganz von den Umständen ab. Così rassicurato, Meyer fece quanto era in suo potere a favore dell'amico, come si è detto senza successo. Di Beloch in Germania si sarebbe parlato ancora per la cattedra di storia antica istituita a Monaco nel 1900, è probabile che anche questa volta il suo nome fosse stato suggerito da Meyer, che aveva rifiutato quella cattedra. Ma solo nel 1912 egli poté finalmente essere chiamato a Lipsia. E varrà forse la pena di fare un'eccezione ai termini cronologici che mi ero proposto e leggere quel che Beloch scriveva allora, ormai quasi sessantenne, a Meyer. Es freut mich natürlich, dass es endlich doch noch dazu geworden ist, nachdem ich so lange in Deutschland behandelt worden bin, als ob ich die Pest oder den Aussatz hätte. Aber es hätte eher kommen sollen. Jetzt war es mir sehr schwer, fortzugehen und ein neues Leben anzufangen. Nun, es gibt Dinge, die man nicht ausschlagen kann. Und in Leipzig finde ich ja den weiten Wirkungskreis, den ich mir immer gewünscht habe. A Lipsia Beloch rimase solo un anno. Era ormai troppo tardi, ein neues Leben anzufangen. Come si sa, d'altra parte, a Lipsia aveva incontrato gravi difficoltà soprattutto per il suo antisemitismo, o forse per la presunta origine ebraica che, a giudizio dei più, il suo antisemitismo voleva appunto nascondere. Varie castiche espressioni di antisemitismo presenta anche il carteggio, in contesti di immediato interesse per Meyer. Tanto più è curioso, o forse significativo, che Meyer non prenda assolutamente mai posizione nei confronti delle dichiarazioni antisemitiche dell'amico Christa Hoffmann, che lei conosce, che fa a Berlino una tesi sull'antisemitismo in der deutschen Altistorie, aveva letto le lettere di Bellow in archivio, aveva letto quelle espressioni, mi scrisse per sapere che cosa avesse mai risposto Mayer, e non voleva quasi credere che Mayer non avesse assolutamente mai preso posizione. Se posso interrompere qui, sì, per un dato di fatto, sì, è vero, è che la moglie, la madre di Mayer si chiamava Dessau. Dessau, sì. E questo può essere. Il fatto però che bello che usasse questa espressione con Mayer, ad ogni modo questo possiamo vederlo dopo. Delle idee politiche del giovane Bellow, tanto diverse da quelle dell'ultimo Bellow, che qui sarebbero state utili quelle ultime lettere a cui faceva riferimento il professor Christe, delle idee politiche del giovane Bellow, che si sapeva già abbastanza dal suo vivace profilo autobiografico pubblicato nel 1926. Di Mayer, invece, non ci sono quasi interventi pubblici, cioè stampati, su questioni politiche prima del 1914, dopo ce ne sono anche troppi. Tanto più interessanti appaiono dunque le lettere che, come quella citata, lasciano in qualche modo trasparire il carattere politico del giovane Mayer o, come altre, documentano le sue posizioni in ordine a precisi avvenimenti. In due lettere del 1888 Mayer si ferma a lungo a considerare gli eventi di quell'anno cruciale nella storia della Germania. È l'anno della morte di Guglielmo I il 9 marzo e della successione di Federico III, il principe liberale già allievo di Curtius, e poi il 15 giugno di Guglielmo II, e chiedo scusa ai colleghi tedeschi se ricordo queste nozioni elementari. La prima delle due lettere è scritta il 22 maggio, cioè verso la fine del brevissimo intermezzo di Federico III, che pur segnò l'inizio della fine di Bismarck. Mayer non aveva esitato a firmare, pur dissentendo dalla forma come d'uso, un manifesto in favore del vecchio cancelliere e spiegava: «Was die Adressenbewegung angeht, so sind diejenigen meiner Bekannten, welche mit unterzeichnet haben, von dem an sich ganz richtigen Gedanken geleitet gewesen, dass es eine Schmach wäre, wenn ein Mann wie Bismarck gestürzt würde, ohne dass sich aus dem Volke eine Stimme für ihn erhöbe. Und dass es sehr billig und sehr nutzlos wäre, ihm nachher eine Kondolenzadresse oder etwas Ähnliches zu senden. E ancora, ich glaube, es ist keines der kleinsten Verdienste Bismarcks, dass den Mut gehabt hat, seinen ganzen Einfluss daran zu setzen, uns vor Krieg und Anarchie zu bewahren.» Così concludeva Mayer nella successiva lettera del 17 luglio, quando era ormai al potere Guglielmo II, un'ampia analisi politica e storica, direi, delle vicende confuse e contraddittorie durante i 99 giorni di Federico III, che ora egli giudicava sulla base di quanto aveva potuto ricostruire aus sehr guten Quellen. E si sarebbe indotti a chiudere sbrigativamente con la banale considerazione che il Mayer politico, quale è generalmente noto, non è nato nell'agosto 1914, se non imponesse cautela proprio l'analisi di cui si parla, della quale preferisco ancora citare senz'altro alcune espressioni significative, tanto più che i relativi problemi storici potrebbero molto meglio essere illustrati dai colleghi tedeschi presenti. Es ist jammervoll, dass diese mit so viele Hoffnungen erwartete Regierung, regno di Federico III, einen solchen Verlauf nehmen musste, so dass via ihr Ende und die Rückkehr einer festen, kräftigen Regierung, regno di Guglielmo II, als Erlösung empfinden mussten. Hätte Kaiser Friedrich wirklich selbst und auf wenige Jahre regieren können, so wäre gewiss manches geschehen, was mir antipathisch und unrichtig erschienen wäre. Aber das hätte sie ja ruhig ertragen lassen, und es ist ja möglich, das es unserem Volke zum Segen gereicht wäre. Ma la conclusione ci ripropone il Meyer politico che, con le parole di Victor Ehrenberg, stets der Bürger des Wilhelminischen Reiches blieb. Wir können, chiudeva Meyer la lunga lettera, wir können ja jetzt wieder mit Ruhe in die Zukunft blicken. Und im Übrigen entschuldige diese Diatribe. Ich freue mich schon auf den Protest, mit dem du auf dieselbe wieder wirst. Si impone dunque la lettura di parte almeno della risposta di Beloch. Der Tod Kaiser Friedrichs ist mir, wie du dir denken kannst, sehr nahe gegangen. Es war für mich der ideale Monarch, nur wenn länger gelebt hätte. Doch wozu spekulieren über das, was unwiederbringlich dahin ist? Jetzt seid ihr Konservativen ja wieder oben auf. Ich fürchte so lange, bis euch eine soziale Revolution einmal herunterwirft. Und das wäre auch ein Unglück für Deutschland. Von dem deutschen Bürgertum ist doch nicht mehr zu erwarten. Ricordo ancora l'impressione che questa lettera fece quando l'ha detti a leggere a qualcuno nell'archivio di Berlino Est. Da un altro punto di vista invece è curioso per quanto dice Beloch là, dopo wozu spekulieren über das, was unwiederbringlich dahin ist, che il più diffuso storico di questi avvenimenti, Michael Freund, Das Drama der 99 Tage, pone alla base del suo libro proprio il quesito di Frage, ob Friedrich der Dritte nicht hätte geheilt und gerettet werden können und ob dann das Weltgeschehen nicht eine andere Bahn genommen hätte. Potrebbe essere un ottimo esempio da aggiungere alla prossima edizione di Ungeschehen, Geschichte di Alexander Denant. Anche più immediatamente significativi sono per noi i giudizi politici che fanno tutt'uno con giudizi storici. Così per esempio, già nella prima lettera del 1885, dedicata in gran parte all'attische Politik seit Pericles di Beloch, Meyer, pur dichiarandosi convertito in molti punti, non era d'accordo su come Beloch aveva giudicato la politica ateniese, in quanto rivolta alla conservazione o alla riconquista del ruolo di grande potenza. Athene war doch nun mal die erste Macht, und der Vorkämpfer von Griechenland gewesen und auf derartige Traditionen darf doch kein Staat ohne weiteres verzichten. So wenig wie Österreich seine leitende Stellung in Deutschland und Italien ohne Schwerstreich aufgeben durfte. Und die Makedonier mögen ihre Ursprung nach Griechen sein, aber zu den eigentlichen Hellenen zählten sie doch nicht. Aber davon ganz abgesehen bin ich doch der Meinung, dass Athen die Pflicht hatte, seine Stellung nach Kräften zu verteidigen. Wenn seine Mittel dazu nicht reichten, so ging es daran zugrunde, wie das ja in Wirklichkeit geschehen ist. Aber ohne weiteres resignieren durfte es nicht. La discussione politica tra i due storici ci riporta, insomma, alla loro opera storiografica, che a noi oggi solo o soprattutto interessa, alla quale vuol dunque servire la considerazione dei vari aspetti della loro biografia, quale è illustrata dal carteggio. Abbiamo finora parlato dell'aspetto accademico e di quello politico. Un terzo importante filo conduttore nel carteggio è costituito dall'aspetto più propriamente culturale. Il carteggio offre puntuale informazione sui viaggi dei due storici, specialmente di Beloch. Per quanto in particolare riguarda i viaggi di studio, Beloch frequentava sistematicamente gli archivi di mezza Europa per quella storia della popolazione che avrebbe dovuto essere il suo capolavoro, il suo Lebenswerk, come diceva, della quale purtroppo poté essere pubblicata postuma solo la parte relativa all'Italia. I tre volumi della Bevölkerungsgeschichte Italien sono ancora fondamentali e finalmente si parla, come tu sai, di tradurli in italiano. Meyer era assiduo frequentatore di congressi e dell'Inghilterra, dove madre e fratelli avevano seguito Kuno Meyer, professore a Liverpool dal 1895 al 1911. Specialmente interessanti sono per noi le lettere relative ai viaggi dei due storici in Grecia e in Asia Minore. Sono queste le lettere in cui Beloch, che andava in Grecia quasi ogni anno, si rivela attentissimo osservatore di ogni anche minuta scoperta archeologica, pace Torelli, diciamo, da noi forse, che si faceva poi un dovere di riferire puntualmente a Maia. Nelle analoghe lettere, Maia, che frequentava molto meno le regioni mediterranee, si rivela scrittore felice, nell'accezione letteraria ed umana del termine. Egli sa delineare rapidamente descrizioni vivaci di persone e di ambienti, nel gusto si direbbe dei resocontisti ottocenteschi. Ma come l'esperienza politica, si è detto, anche l'esperienza geografica appare chiaramente vissuta in funzione del prevalente interesse storico. Mia ha di Reise in Griechenland, viaggio del 1884, sehr viel genutzt, von der Kleinheit der Dimensionen, dem Charakter des Landes und der materiellen Grundlage und Gestaltung einer griechischen Polis kann man sich doch ohne Anschauung nur schwer einen lebendigen Begriff machen. Considerazione non propriamente nuova, ma riscattata nel contesto dall'entusiasmo della scoperta personale. In quello che era stato il suo primo viaggio in Grecia, salvo quanto potesse aver visto in connessione con il soggiorno a Costantinopoli del 1875-76. Un secondo, più lungo viaggio in Grecia, Maier fece nel 1887-88, passando anche questa volta dall'Italia. Da Roma proseguì per la Grecia accompagnato da Beloch fino a Costantinopoli, e da allora nelle lettere si passa al tu. Quindi proseguì da solo per l'Asia Minore. Pergamo, Mytileneum, Troas, Sovisardis, scrive poi l'amico, stemmia imma mit voller Lebendigkeit vor Augen. Da ich nicht nach Assos gekommen bin, bedauere ich noch immer. Se queste escursioni storico-geografiche interessano ovviamente come presupposto di un aspetto fondamentale dell'attività scientifica dei due storici, le molteplici connessioni di questa con il mondo degli studi sono illustrate dai riferimenti a studiosi precedenti, come a Böck e a Groth. È dichiarata l'esigenza di superare ormai la storia puramente economica dell'uno e la storia puramente politica dell'altro, ma soprattutto contemporanei. Per quanto riguarda Maier, ricorderò almeno i notevoli spunti polemici contro Bücher e Delbrück, Niese e Zeek, Duncker e Kirchhoff, i bei giudizi su Wilken e Vissova, le discussioni con Karl Robert e Wilamowitz. E non starò ad elencare un'altra dozzina di nomi che pur orientano intorno ai rapporti personali di Maier con il mondo accademico tedesco. Quanto a Beloch, la sua ben nota verve polemica, ma anche il suo acuto spirito critico, trovano nelle lettere, come era da attendersi, il terreno più favorevole. Proponeva per esempio la soluzione di un problema precisando: nach meiner Ansicht, die dadurch gestützt wird, dass Holm das Gegenteil meint. O a proposito di un articolo di Kornemann: wir müssen doch antworten, sonst glaubt der Mensch schließlich noch, er hätte etwas Verständiges gesagt. L'uomo era fatto così, lo diceva anche Fraccaro, ricordo. Ma accanto a questi inconfondibili tratti del suo spirito caustico, ce ne sono molti altri naturalmente, ci sono giudizi storiograficamente più rilevanti. Esist eine wahre Schande, scriveva già nel 1886, dass wir uns noch immer mit Büchern von Curtius und Busold behelfen müssen. La rilevanza del giudizio si identifica ovviamente con la conseguente attuazione dell'esigenza storiografica in esso espressa. Und Curtius, ha ricordato già ieri Christ, und Curtius ist seitdem nicht wieder aufgelegt worden, poteva affermare Beloch 40 anni più tardi, con orgoglio ma anche con verità, ricordando nel suo profilo autobiografico il successo incontrato subito dai primi due volumi della sua Griechische Geschichte. Di più specifico interesse per la genesi per la genesi dell'attività scientifica dei due storici si rivelano lettere come per esempio quelle del 1891 che registrano le loro immediate impressioni e reazioni alla pubblicazione dell'Athenaeum Politeia, in particolare la soddisfazione per la conferma che ricevevano non poche loro ipotesi, specialmente di Beloa, e la polemica contro quanti negavano l'attribuzione dell'opera ad Aristotele. Ad essa Maier dedicò subito un corso, come molti altri colleghi del resto. Su di essa intendeva ancora scrivere, ma non subito. Ich warte ruhig ab, bis die große Flut, die sich über das selbe zu ergießen beginnt, vorüber ist, und will dann sehen, ob mir nachher noch etwas zu sagen übrig bleibt. Presupposti, connessioni, genesi, si è detto, dell'attività scientifica dei due storici. Ma di essa le lettere permettono soprattutto di seguire da vicino lo svolgimento. Per quanto riguarda Maier, il sicuro procedere della Geschichte des Altertums e, per esempio, l'entusiasmo per i risultati conseguiti già nel 1888 in ordine alla storia della saga greca, o la ferma consapevolezza in una lettera del 1892 über die Entwicklung des älteren griechischen Staates mehr ermittelt und ausgeführt zu haben als bisher irgendjemand gemacht hat. Ich bin sehr begierig, aggiungeva, was für eine Aufnahme diese Abschnitte finden werden. Spesso si fermava a commentare le varie fasi del suo lavoro. Gegenwärtig, scriveva il 20 aprile 1891, sitze ich an einer Darstellung der staatlichen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse des griechischen Mittelalters. Diesen Terminus kann ich nicht entbehren und hoffe viel Hübsches gefunden zu haben. Ich habe mich dabei in manche ökonomischen Dinge und vor allem auch in Partien der älteren deutschen Geschichte, die mir bisher noch ziemlich fremd waren, tiefer einarbeiten müssen. Ich hoffe aber, das soll der griechischen Geschichte, die eine derartige Behandlung sehr brauchen kann, zugute kommen. Analogo contributo offre il carteggio per la griechische Geschichte di Beloch. Così, brevemente, a proposito del secondo volume, die politische Geschichte wird selbstverständlich den größten Raum einnehmen, was ich in gewissem Sinne bedauere. Aber die Leute verlangen es nun doch einmal von einer griechischen Geschichte. Übrigens ist ja auch wirklich die politische Geschichte in der Geschichte des 4. Jahrhunderts die Hauptsache. E ancora sugli ultimi capitoli dello stesso volume. Natürlich wird es mal die politische Geschichte den größten Raum einnehmen. Es kommt ja dabei in Einzelnen vieles heraus, aber daran liegt schließlich sehr wenig. Die Hauptsache ist, dass die Geschichte des 4. Jahrhunderts einmal nicht vom athenisch-demokratischen, sondern vom panhellenischen Standpunkt aus dargestellt wird und die großen geistigen Strömungen ins rechte Licht treten. Im Mittelpunkt des Ganzen steht natürlich Philipp. Und du wirst sehen, dass ich der Monarchie auch gerecht werden kann. Come e quanto tutto ciò possa servire alla più profonda comprensione della Geschichte des Altertums e della griechische Geschichte, non si potrebbe dir meglio che con le parole di Goethe, se è lecito scomodarlo in una circostanza come questa, che per comprendere appieno le grandi opere è necessario non solo averle viste compiute, ma anche averle spiate nella loro formazione. Sarei grato a che mi sapesse indicare l'origine di questa citazione che io conosco di seconda mano da Stefan Zweig. Non vorrei che l'avesse inventata lui, scriveva così bene. Lui scrive appunto das berühmte Wort Goethes, das man die großen Schöpfungen, um sie ganz zu begreifen, nicht nur in ihren Vollendung gesehen, sondern auch in ihrem Werden belauscht haben muss. Esempi di questo genere potrebbero essere moltiplicati se si pensa che nel carteggio i due storici non parlano solo della Geschichte des Altertums e della griechische Geschichte, ma un po' di tutti i loro scritti di quegli anni fervidi di attività. Per l'odierna sensibilità storiografica è particolarmente interessante la genesi dei fondamentali e innovatori studi demografici, sociali ed economici, per esempio del famoso Vortrag di Mayer alla Frankfurter Historical Versammlung dell'aprile 1895 di Wirtschaftliche Entwicklung des Altertums. Ich möchte dabei, scriveva Mayer nel marzo di quello stesso anno, gegen den Unsinn der über diese Dinge seitens der Nationalökonomen so vielfach als sichere Tatsa verkündet wird, einmal ernstlich opponieren. Doch, wie es scheint, machen die Historiker es ebenso schlimm. Was ich bis jetzt von sechs Geschichten des Untergangs der antiken Welt gelesen habe, scheint mir ganz wüst und verschoben zu sein. Und ich werde mich wohl damit auch auseinandersetzen müssen. E commentava, du siehst, ich habe ein Modethema gewählt, un tema tanto alla moda da essere immediatamente tradotto in russo da Mikhail Osipovich Kershenzon, il noto intellettuale russo di origine ebraica, che poi tradusse anche la griechische Geschichte di Beloch. La traduzione russa della Wirtschaftliche Entwicklung des Altertums tanto più merita di essere ricordata in quanto non compresa nella Mayer bibliografia di Heinrich Marohl, che pur conosce le traduzioni russe degli analoghi saggi sulla schiavitù e sulla teoria della storia. Altre traduzioni russe di scritti di Mayer sfuggite a Marohl sono quelle degli importanti articoli pubblicati nel Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Il successo degli scritti di Mayer continuò in Russia anche dopo la rivoluzione, come provano le ristampe delle traduzioni citate. La traduzione della Wirtschaftliche Entwicklung, per esempio, ebbe nel 1923 una quarta edizione. E, rinverdito forse dal viaggio di Mayer in Russia nel 1925, e gliene parla nella sua ultima lettera, come accennava all'inizio, sopravvisse anche alla svolta staliniana, come mostrano ancora nel 1938 significativi giudizi nella Bolshaya Sovietskaya Enciclopedia e nel Vyestnik Drevnyeh Istoriyi. Anche la traduzione russa della Griechische Geschichte di Beloch, per restare nello spirito delle vite parallele, ebbe larghissima diffusione, specialmente in una seconda edizione senza note apparsa nel 1905. Il successo russo dei citati scritti di Mayer e della storia greca di Beloch trova certo la sua principale spiegazione, e per questo valeva la pena di ricordarlo, nell'importanza che ha in tali opere la problematica economico-sociale, quella che appunto caratterizzava profondamente la storiografia russa sul mondo antico già prima, molto prima della rivoluzione, sicché per esempio Rastoptsev ha radici ben più profonde di quanto comunemente si ritenga nel tessuto storiografico del suo paese. Ma non è ora il momento di approfondire il pur interessante capitolo della fortuna russa dei due storici, tanto più che resta ancora da presentare l'aspetto scientificamente più importante del carteggio. Mi riferisco alla serie di giudizi critici che, con franchezza di linguaggio ed approfondimento dei problemi, ciascuno dei due storici esprime nelle lettere intorno agli scritti dell'altro. La presentazione del carteggio avrebbe forse potuto essere utilmente limitata a questo solo aspetto, se esso non fosse proprio per il suo carattere specialistico e tecnico il più difficile da sintetizzare in un'esposizione orale. La puntuale e documentata discussione sulle ricerche demografiche che i due storici conducevano contemporaneamente sugli stessi argomenti dà per esempio un contributo fondamentale, a mio parere, alla più precisa valutazione di quelle ricerche, cioè dei loro metodi, risultati ed autori. L'immediata e recisa critica di Mayer al famoso saggio di Beloch sulla Dorische Wanderung del 1890 sarebbe tutto da leggere e commentare, così come del resto l'immediata risposta di Beloch. I giudizi più vistosi si riferiscono ovviamente alle opere in volume. Ricordo che negli anni a cui si è voluto limitare questa presentazione del carteggio, Mayer pubblicò l'intera prima edizione della Geschichte des Altertums, la Geschichte des Alten Ägyptens, die Entstehung des Judentums, e raccolse due volumi delle Forschungen zur Alten Geschichte. Negli stessi anni Beloff pubblicò con i primi due volumi della Griechische Geschichte l'Attische Politik seit Pericles e l'ancora oggi fondamentale Bevölkerung der griechisch-römischen Welt. Mi limiterò anche questa volta all'esempio più significativo. Nel 1893 apparvero a pochi mesi di distanza il primo volume della Griechische Geschichte di Beloch e il secondo volume della Geschichte des Altertums, principalmente dedicato alla storia greca fino alle guerre persiane. Il giudizio di Meyer sul volume di Beloch è noto dalla fondamentale recensione Literarische Centralblatt del 1894. Tanto più interessante dunque l'interpretazione, per così dire, autentica della recensione che egli dava all'amico. Ich habe mich bemüht, Übereinstimmungen, die Gegensätze zwischen uns möglichst scharf und prinzipiell zu formulieren und die Differenzen der Auffassung zwar nicht zum Aufstand zu bringen, aber zu klären und auf ihre Wurzel zurückzuführen. In Anlage und Form gefällt mir dein Buch sehr gut. Und im Allgemeinen ist der Standpunkt, von dem du die Frage angreifst, ja auch der meine. Was ich zu tadeln habe, ist dir längst bekannt. Du bist mir zu radikal und infolgedessen konsequenter, als man meiner Meinung nach in der Geschichte sein darf. Du siehst die Probleme vielfach zu einfach an und costruisce daher, meiner Meinung nach, zu viel. Già nel foreword del primo volume della Geschichte des Altertums, Meyer aveva fissato il criterio a cui si sarebbe poi sempre sostanzialmente attenuto. In der Geschichte ist überall, wo wir keinen festen Boden unter den Füßen haben, ein zu wenig besser als ein zu viel. Das wird, continua la lettera, durch die im Übrigen sehr markante und lebensvolle Disposition deines Buches noch gesteigert, welche große Perioden zusammenfasst und innerhalb derselben die einzelnen Stadien der Entwicklung und die unterschiedenen Epochen, wie ich glaube, nicht genügend hervortreten lässt. Si pensa qui a quel che Meyer avrebbe poi scritto nel foreword del quarto volume della Geschichte des Altertums. Der geschichtliche Stoff trägt eben auch die Form seiner Darstellung in sich selbst. Nicht wir gestaltet ihn, sondern er gestaltet sich in uns. Dazu kommt, prosegue ancora la lettera, perché è molto lunga e tutta importante, unsere viel diskutierte Differenz betreffs der Bedeutung der Persönlichkeit in der Geschichte. Und die verschiedene Auffassung der Geschichte des 5. Jahrhunderts, speziell des Themistokles und Perikles, bei denen ich längst zum thukydideischen Standpunkt zurückgekehrt bin. Doch ich will meine Rezension hier nicht wiederholen. Ich würde von dir, wenn du mein Buch zu besprechen hättest, gerade die umgekehrte Angriffe erwarten. Das entscheidende Wort müssen andere, oder vielmehr der weitere Fortgang der Wissenschaft, sprechen. Jedenfalls werden ja immer die beiden Auffassungen nebeneinander bestehen bleiben und sich gegenseitig fördern und so zur Vertiefung der Erkenntnis helfen müssen. In effetti, così come Meyer aveva recensito insieme Beloch e Wilamowitz, altri poi recenseranno insieme Meyer e Beloch, per esempio Ivo Bruns, per citare l'ultima recensione di questo genere che ho letto. L'importante lettera di Meyer è del 28 dicembre 1893, l'altrettanto importante risposta di Beloch è del 1 gennaio 1894, a quel tempo in Italia la posta funzionava meglio di oggi. In essa Beloch spiega la sua posizione metodologica. Du meinst, ich wäre zu konsequent. Aber ich habe immer gemeint, die wissenschaftliche Forschung bestände gerade darin, alle Probleme konsequent bis zum Ende durchzudenken. Nella stessa lettera, Beloch presenta una puntuale analisi critica del secondo volume della Geschichte des Altertums, tanto più interessante in quanto la prevista recensione non risulta pubblicata. Per esempio, der Ausdruck griechisches Mittelalter ist überhaupt sehr gefährlich und kann zu ganz falschen Analogien verleiten, denn das europäische Mittelalter, so barbarisch es war, ruhte doch auf den Grunde der antiken Zivilisation, während dem griechischen Mittelalter keine höhere Zivilisation vorangegangen ist. Almeno su questo punto la successiva risposta di Meyer è facilmente prevedibile. Den Ausdruck Mittelalter habe ich allerdings auch aus dem Grunde gewählt, weil ihm eine nach manchen Richtungen höher entwickelte Kultur meiner Meinung nach in der mykenischen Epoche vorangegangen ist. Du siehst, ich scheue vor der Konsequenz, um deren Willen du ihn vermisst, durchaus nicht zurück. A Meyer stava particolarmente a cuore il concetto di medioevo ellenico, anzi la categoria storica di medioevo, come avrebbe chiarito da ultimo nella notissima analisi del libro di Spengler. Wenn wir jetzt zum Beispiel vom Mittelalter reden, so verstehen wir darunter nicht mehr die Epoche zwischen dem Absterben des Römischen Reichs und der Reformation, sondern einen in seiner eigenen scharf charakterisierten Kulturzustand, der sich in einer bestimmten Epoche der Kulturentwicklung gleichartig bei den verschiedensten Völkern vorfindet. Ob man den Terminus für passend gewählt hält oder durch einen anderen ersetzen will, ist dafür gleichgültig. Per dare un'idea concreta del carteggio Belloc-Meyer, ho cercato, per quanto possibile, di far parlare le lettere stesse, in ogni caso molto più interessanti di quel che io avrei potuto dire. Poiché le citazioni dirette riguardano al massimo una ventina delle 85 lettere, è evidente quanto sommaria e perciò stesso arbitraria sia stata questa presentazione. La limitazione più grave è ad ogni modo rappresentata dall'inopportunità, anzi impossibilità, di un'analisi critica delle innumerevoli questioni scientifiche affrontate dai due storici in un continuo dibattito che è per lo più puntuale e concreto, cioè documentato. Si tratta dunque di un dibattito interessante non solo per la storia della scienza, ma per la scienza stessa, cioè per lo studio di problemi ancora vivi nella ricerca, in qualche caso molto più vivi oggi di quanto non fossero al tempo in cui i due storici li dibattevano. È chiaro che questo aspetto del carteggio, a mio giudizio il più importante, potrà trovare adeguata presentazione solo nell'edizione commentata che io mi auguro di fornire ormai presto. E tuttavia, concludendo, una lettura limitata all'aspetto, per così dire, tecnico del carteggio sarebbe indubbiamente riduttiva, non tanto per la presenza dei temi di più ampio respiro di cui si è fornito qualche esempio, quanto per il significato generale che al carteggio si può riconoscere nel quadro della Altertumswissenschaft, più precisamente della storiografia sul mondo antico fra 8 e 900, al culmine di un percorso che solo in parte è ancora il nostro, che tanto più dunque noi dobbiamo ormai ripensare storicamente. In fondo, quello che noi chiamiamo lo studio scientifico della storia antica è un fenomeno culturale recente, un fatto di poche generazioni. In Germania la prima generazione è quella di Niebuhr, ovviamente, la seconda quella di Mommsen, la terza è appunto quella di Eduard Meyer, perfettamente contemporanea alla prima generazione italiana rappresentata dagli allievi italiani di Mommsen, ma soprattutto da Belloc, che con la sua scuola romana, come la definirono i tedeschi, diede il contributo decisivo all'affermazione in Italia dei nuovi metodi di ricerca elaborati in Germania. Non ho intenzione ora di proseguire l'indagine genealogica, voglio solo rilevare tutta una serie di notizie che nelle lettere di Belloc si riferiscono al mondo accademico o editoriale italiano con i problemi di sempre, alle polemiche o ai congressi che anche allora naturalmente animavano l'Italia scientifica, ai colleghi, agli allievi, ai loro scritti, ai frequenti viaggi come commissario nei più remoti angoli d'Italia che servivano a Belloc per mettere a punto una nuova geografia storica dell'Italia antica, eccetera. Tutte queste notizie in sé scarsamente significative, mostrano nel loro insieme e ricordano ad ogni passo quali profonde radici avesse posto Belo, nonostante tutto, nel paese di cui alla fine sarebbe divenuto cittadino. Il carteggio Beloch-Maya, che potrebbe apparire, e certo in grandissima parte è, un discorso interno alla scienza tedesca, si rivela così anche un documento di prim'ordine per la fase decisiva dell'incontro fra la storiografia tedesca e la storiografia italiana sul mondo antico. Valeva forse la pena di segnalare anche tale aspetto in una sede come questa, istituzionalmente deputata all'indagine delle più diverse manifestazioni dei rapporti fra Italia e Germania. Grazie dell'attenzione. Der stärkste Eindruck, den dieses Referat hinterlässt, ist die Neugier auf die bevorstehende Publikation. Wir wissen, wie lange Sie sich schon mit welcher Akribie und Intensität um diese Briefe bemühen. Und wir hoffen nur, dass Sie bald im Druck vorliegen. Vielleicht gibt Ihnen unsere große Erwartung einen weiteren zusätzlichen Impuls für die Publikation, von der vorauszusehen ist, dass sie für die deutsch-italienischen Beziehungen im Rahmen der Altertumswissenschaft eine fundamentale Bedeutung besitzen wird. Das ist also mein Wunsch danach. Nun darf ich fragen. Das ist auch mein Wunsch. Nun darf ich fragen, ob Sie noch Auskünfte von Herrn Polverini wünschen oder etwa das Wort ergreifen wollen. Viel Zeit für die Diskussion haben wir nicht mehr, höchstens 5 Minuten. Dann müssen wir diesen reichen und anstrengenden Tag auch beenden. Aber wir eröffnen die Diskussion. Bitte. Nur eine Information zum Terminalsatz. Also hatten Meyer und auf der einen Seite und Belo auf der anderen Seite eigentlich irgendwelche Freundschaften, die man sozusagen mit der vergleichen kann? Also wissenschaftliche Beziehungen bzw. Freundschaften. Oder ist das sozusagen bei Meyer und bei Belo auch jeweils etwas ganz Besonderes, diese enge Beziehung zu jeweils anderen? E per quanto riguarda Beloch, Meyer è il solo amico che avesse in Germania, e questo già è importante. Meyer ovviamente aveva altre corrispondenti. Certo, il tono del carteggio, specialmente del periodo che ho trattato fino al 1902, che poi le lettere non le abbiamo più, è un rapporto non soltanto di colleganza scientifica, ma di profondissima amicizia. Proprio l'ultima lettera che si è trovato ora nella casa di Meyer, è rimasta lì perché si riferiva a un lutto di casa Meyer, naturalmente. Lì Meyer, parlando del lutto, ricorda la sera che avevamo passato insieme ad Atene, quando per la prima volta Brüderschaft ertrante, il costume insomma tedesco con cui si passa al Turk, e poi vabbè, c'è un rapporto umano profondo, che questo lo aveva segnalato all'inizio il professor Christ. Purtroppo io avevo lasciato fuori questa parte per motivi anche di tempo, perché in effetti le lettere successive alla guerra mondiale, a partire dal 19 al 28, sono veramente veramente belle, veramente belle. Là c'è tutto un nuovo Belo che insomma che la guerra ha cambiato, un Belo che comunque continua con i suoi giudizi, con i suoi giudizi scientifici. Per esempio lì, quando riceve il Caesar's Monarchy di Meyer, è interessantissimo. Quando riceve il primo volume sul cristianesimo, già sono sorpreso che tu conosca anche queste cose. Io gente come Harnack e Wellhausen non li ho mai letti e non ci si poteva aspettare. aspettare ganz genau. Altrimenti da Beh, ci sono anche questi giudizi, ma i giudizi sulla vita politica tedesca, peccato che non si hanno lì le corrispondenti lettere di Maier, sarebbe stata importante, tranne quella ultima del 26, ma oramai acqua era passata, insomma, sotto i ponti anche della Spree, insomma, e quindi il tono è già diverso, e in quella lettera poi si parla di quasi parla. No, c'è effettivamente una profondissima amicizia, un'amicizia che nasceva da vari elementi imponderabili, ma secondo me soprattutto a questa affinità che i due storici avevano, proprio per la loro indipendenza, insomma, questo fatto è curioso. Bello che ha studiato da sé, a Heidelberg ha studiato 3 mesi, insomma, Roma, Palermo, niente, eccetera. Maier, questo ne sono sicuro perché ho visto i suoi libretti di studente lì nel Nachlass Maier a Berlino Est, aveva seguito unicamente corsi di lingue orientali. La storia greca e la lingua greca di Maier risalgono al Ioanneum. All'Università di Lipsia ha studiato unicamente, questo lo portava fuori. Probabilmente questo collega il fatto che Maier fosse l'unico amico di Berlioz in Germania, derivava un po' anche da questa sua posizione indipendente nei confronti delle scuole che comandavano e che ovviamente erano ostili. Infatti la non chiamata di Belloc in Germania, Maier la spiega, aveva sentito dire che Moms era contro e quindi Althoff, che di per sé sarebbe passato sopra anche alle questioni politiche, non poteva passare sopra al parere di Theodor Mommsen. Ma insomma ci sarebbe molto di più da dire, perché in effetti il carteggio è molto grosso e quindi questa è solo una esemplificazione. Forse soltanto per la domanda che lei aveva fatto, Edward Maier ha avuto molti amici in America e questi bisognerebbe raccogliere, dico, uno dei tanti è naturalmente... Le due volte che fu professore là in America. Mentre Bello, che però che aveva la moglie americana, in America non aveva conoscenze, come dice lì quando dopo la guerra voleva recuperare una cattedra, cioè potrei andare in America ma là non conosco assolutamente nessuno. Senti, in queste lettere degli anni grosso modo sul 90, 95, c'è qualche primo accenno da parte di Belo a De Santis o no? Ci sono accenni ai suoi studenti e di regola indiretti, parla cioè dei volumi, degli studi di storia antica pubblicati da Giulio Belo, che naturalmente mandava a Maier, sottolineando l'importanza dei contributi, e una volta sottolinea l'importanza del contributo di De Santis, senza fare il nome. Uno che invece stava molto a cuore a Belo, di cui pare voleva il giudizio di Maier, era il Varese, il suo libro sulla cronologia, che Maier invece distrusse con una lettera lunghissima. Degli altri parla, degli allievi, ma sempre come autori di quei contributi. È interessante se Belo aveva già visto in De Santis... In ogni caso, inviandogli il volume secondo degli studi, fa riferimento allo stesso argomento e si capisce che l'argomento trattato da De Santis non ne faceva il nome, perché ovviamente De Santis ancora non era nessuno. Se mi permettete di introdurre due fatti su questo punto del rapporto Belloc-De Santis. Quando De Santis pubblicò l'Attis, Belloc gli dice questa è una decadenza. La tesi tua di laurea è molto migliore dell'Attis. Ora l'Attis da questo punto di vista è molto interessante per i rapporti con Maier, perché non c'è dubbio che l'Attis di De Santis, e De Santis lo dichiarava lui stesso, è il risultato dell'influenza di Edward Maier. Ecco. Cioè tutta la concezione del mondo greco che De Santis aveva tra il 1892 e il 1898 e ha conservato poi profondamente dopo l'indipendenza di Edward Maier, ma soprattutto dell'Edward Maier del 1892, cioè del secondo volume della Geschichte des Altertums, e lì Maier indica la separazione di De Santis da Belo. E questo è un dato di fatto. La separazione che poi si concretizza anche nel fatto che De Santis abbraccia la storia romana. Facendo questa domanda a te, io sapevo che sarebbe entrato qui Pomigliano, perché sapevo qualche cosa del genere, ma non ero ben informato. Sì, però... Sapevo che in quegli anni c'era stato qualche cosa per cui De Santis si era rivolto più a Maier. E tu me l'hai confermato adesso. Vabbè, sì, però il carteggio non dimostra niente. In proposito, in quanto accenna genericamente a questi studi, accenna ad alcuni di questi e una volta accenna a quello del De Santis, è chiaro, però non entra nei dettagli. No, pensavo che fosse una frase, come sai, questo mio allievo che guarda molto a te, insomma, una frase di questo genere. No. Non c'è. Comunque, vabbè. Es ist Zeit abzuschließen. Ich danke dem Referenten und denjenigen, die sich beteiligt haben. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Kurz etwas zum heutigen Tag sagen. Wir haben heute zunächst die Freude, Herrn Professor Fulvio Tessitore zu hören. Ich werde ihn nachher gleich einführen. Dann musste ich Ihnen ja zu Beginn mitteilen, dass Herr Professor Gärtner aus Regensburg, der einen Vortrag halten wollte, ein Referat übernommen hatte über die Rezeption des antiken Romans im 19. Jahrhundert, leider schwer erkrankt ist und deswegen nicht unter uns sein kann. Wir haben deswegen heute Morgen etwas mehr Zeit nach dem Referat von Herrn Professor Tessitore zu diskutieren. Wir haben aber dann auch die Möglichkeit, zusätzlich in das Programm ein weiteres kurzes Referat von Herrn Dr. Heidemann aus London aufzunehmen, der über den Philhellenismus sprechen wird. Das ist also das Programm für heute Morgen. Noch eine rein technische Frage. Ich begrüße Herrn Prodi, der eben erschienen ist. Wir wollen dann um 14.30 Uhr mit dem Bus in die Stadt zurückfahren und beenden dann vielleicht unsere Arbeit heute um 12.30 Uhr hier. Dann ist, oder sollten wir bis 13 Uhr? Ich glaube, bis 13 Uhr. Bis 13 Uhr, dann schön. Ist es offen? Gut, also dann haben wir Zeit bis 13 Uhr. Schön, vielen Dank. So also die rein organisatorischen Dinge. Nun zur Einführung von Herrn Professor Fulvio Tessitore. Die Italiener.